hanno toccato alcuni aspetti molto generali, vero, come una visione portata dalla teologia dell'Antico Testamento, dal mondo religioso di Israele, considerazioni filosofiche, antropologiche, come quelle presentate da Valenziano l'ultima volta, ma già l'intervento di Valenziano ci ha portati a guardare anche a determinati documenti, cioè espressioni concrete in cui si cerca di avviare la traduzione in dimensione pratica di questi concetti di fondo che una riflessione sui diritti dell'uomo presentano. E la relazione di questa sera prosegue questo iter che va più verso la concretezza e verso l'incarnazione dei diritti dell'uomo nella vita. Indubbiamente ci siamo accorti già parlando dei diritti dell'uomo nella Carta dell'ONU, come questo condizioni, limiti, ovvero l'attuazione delle idee per molti versi. Ecco, e questo discorso viene proseguito da due lezioni che avremo in programma: questa che guarda ai diritti dell'uomo nella nuova Costituzione sovietica, e un'altra che è prevista per l'autunno, che parlerà dei diritti dell'uomo nella Costituzione italiana. È ovvio che simile discorso si potrebbe rifare a proposito delle costituzioni di tutti gli Stati, ma non possiamo se non limitarci a un qualche saggio, anche per non ampliare eccessivamente il discorso. Il relatore di questa sera è il padre Huber, rettore del Pontificio Istituto Orientale, che ha un suo retroterra di studio, direi quasi semisecolare, nel capitolo della vita sociale e religiosa e spirituale dei paesi slavi e in particolare della Russia. Ricordo che da questo ambiente sono usciti in passato studi come la storia del materialismo dialettico di Vetter, pubblicata da Einaudi qualche anno fa, oppure da questa medesima scuola la Ostslavische Kirchengeschichte, la storia della Chiesa di Russia, del padre Amann. Questo per darci l'idea di un retroterra scientifico che nell'ambiente dell'Istituto Orientale viene costantemente portato avanti, cercando di congiungere riflessione filosofica, teologica, con la conoscenza culturale e anche con l'osservazione attuale di quello che sta maturando in seno a queste popolazioni. Noi siamo lieti di salutarlo in mezzo a noi, il padre Huber, anche non fosse altro per la disponibilità con cui ha accettato la nostra offerta, direi con un ottimismo e una bonarietà tipica da uomo delle regioni alpine, come egli si presenta anche esternamente. Io questa sera, quando l'ho visto arrivare a Trento con rucksack sulla spalla, da buon tirolese, quasi o bavarese, ho pensato subito a una certa aria di casa, perché il rucksack si chiama a Trento il rucksack, ha una sua parola trentina propria, vero? E quindi noi abbiamo una certa confidenza anche con questi modi di comportamento esterni umani che ci rendono abbastanza vicini. E non voglio dilungarmi ulteriormente nella presentazione della figura spirituale dell'oratore, perché penso che tutti avremo ora il piacere di poterlo conoscere più da vicino nel suo ragionamento. Come sempre, siete cordialmente invitati, dopo la relazione, che non sarà eccessivamente lunga, a porre al relatore le vostre domande, e cercheremo con la solita confidenza e reciproca apertura anche di dare soddisfazione a queste eventuali richieste. Prego, padre, la parola a lei. Forse è meglio se parlo in piedi, mi metto forse qua, perché così io posso vedere gli auditori e loro possono vedermi a me. La Costituzione sovietica, certo, è forse il più recente e grande documento contiene delle proclamazioni sui diritti dell'uomo e così certamente è interessante a vedere che cosa si dice. Allora, per cominciare alcune considerazioni sui diritti dell'uomo e costituzioni in genere, poi sulla Costituzione sovietica, qualche cosa sulla sua storia e su alcune sue affermazioni fondamentali che devono essere presenti quando non tiene, che devono essere presenti quando si vuole leggere questa Costituzione. Poi parlerò delle dichiarazioni dei diritti e doveri nella Costituzione e infine farò un piccolo cenno sul rapporto fra i patti internazionali e i diritti sociali, politici e la nuova Costituzione sovietica. Sui diritti dell'uomo e le costituzioni. Lo scopo principale di tutto il discorso sui diritti dell'uomo classicamente, tradizionalmente, è la lotta contro il peso dello Stato. Originariamente contro lo Stato assolutistico, oggi contro il sempre ricorrente pericolo dei stati polizieschi di tipo nazista o stalinista ed in genere contro la crescente burocratizzazione della vita sociale. Ma è proprio qui che si vede l'antinomia dei diritti dell'uomo, che non è una qualità particolare di questa concezione, che è molto diffusa in tutte le concezioni sociali, che c'è una certa antinomia dentro. Se prendiamo per esempio un'affermazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che è la seguente: l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create delle condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici. Si può vedere facilmente che per creare queste condizioni, delle quali qui si parla, occorrono delle istituzioni. E così, dall'altro lato, si rafforza il peso delle istituzioni dello Stato. Il contesto ideologico della proclamazione dei diritti dell'uomo era originariamente il razionalismo classico, che credeva in una natura o essenza dell'uomo immutevole, la quale era la base di questi diritti. Il contesto ideologico nel quale sta la Costituzione sovietica è differente. È quello marxista, ed in questo contesto del marxismo il razionalismo viene fortemente trasformato. Primo, al posto della natura umana immutevole si mette una concezione secondo la quale l'umanità è un fenomeno che si sviluppa da inizi primitivi a dei stadi sempre più perfetti nel senso dell'umano. Secondo, la razionalità dell'uomo non viene tanto vista nella coscienza di sé che all'uomo pensante, come nel razionalismo classico, ma nella attività oggettiva dell'uomo. Marx parla della Gegenständliche Tätigkeit, ciò che viene tradotto come attività oggettiva, cioè una attività che trasforma un oggetto E questo è il punto di partenza dell'antropologia di Marx. Questa attività spesso viene chiamata pure lavoro. Così si comprendono due cose. La prima è che la Costituzione sovietica parla non soltanto dell'uomo presente, ma anche di quello futuro che deve venire. Secondo, che il primo diritto dell'uomo che si pronuncia è il diritto al lavoro. Parlando di costituzioni, è utile avere in mente anche una distinzione che venne introdotta, in quanto so, proprio in Italia, e che è diventata usuale, la distinzione fra costituzione materiale e formale. Vuol dire costituzione attualmente in vigore, attuata, e quella scritta. Per chiarire un po' questa differenza, farò due esempi. Sono stato un mese fa negli Stati Uniti e stavo a Washington e un amico mio americano mi prese per un giro della città la sera, una sera avevamo libera, e andavamo al Jefferson Memorial, il monumento a Thomas Jefferson, che era due volte presidente degli Stati Uniti e che è l'autore della Virginia Bill of Rights del 1776, la prima dichiarazione dei diritti dell'uomo. E in questo memorial, in questo monumento, sulle pareti ci sono questi testi in grandi lettere. Io cominciai a leggere e il mio amico americano mi disse: sai, tutte queste belle cose erano dette solo per i bianchi. In Virginia, a questo tempo, per i negri c'era la schiavitù. Secondo esempio, quando Stalin nel 1936 presentò il programma della nuova Costituzione, disse tra l'altro: la Costituzione deve parlare di ciò che esiste già, di ciò che è stato ottenuto e conquistato adesso. La Costituzione in ogni tappa è la registrazione e la sanzione legislativa di quello che è già stato effettivamente ottenuto e conquistato. Così Stalin nel 1936, introducendo il progetto della Costituzione. Brezhnev nel 1977, presentando pure il progetto della nuova Costituzione, disse tra l'altro: sappiamo, compagni, che alcuni anni dopo l'adottazione della Costituzione ora vigente, cioè quella staliniana, erano oscurati da repressioni illegali, da violazioni dei principi della democrazia socialista, delle norme leniniane per la vita del partito e dello Stato. Questo si fece contrariamente alle disposizioni della Costituzione. Il partito ha condannato decisamente questa pratica, che mai si deve ripetere. Si vede che non tutto quello che stava nella Costituzione del 1936 era effettivamente acquisito, come Stalin aveva detto. Io ho raccontato questi due esempi solo per illustrare la distinzione fra Costituzione materiale e Costituzione formale. Qui noi parleremo della Costituzione formale, cioè di quella scritta in quanto scritta. Sulla nuova Costituzione sovietica, è la quarta, se si conta pure quella del 1918, che non era ancora Costituzione della Unione Sovietica, siccome la Unione Sovietica esiste solo dal 1922. Però è chiamata pure Costituzione Sovietica. La seconda era del 24 e la terza del 36. Della necessità di una nuova Costituzione, Khrushchev parlava già nel 1959 al 21° congresso del partito. La Commissione Costituzionale lavorava dal 62 e 62 e fino al 64 sotto la presidenza di Khrushchev e dal 1965 sotto quella di Brezhnev. Brezhnev presentò finalmente il progetto della Costituzione nella primavera del 77, seguì una discussione popolare, molta gente scrisse delle lettere, fece delle proposte che furono poi pubblicate nei giornali, discusse, eccetera. E poi però gli ammendamenti, c'erano molti ammendamenti che furono accettati, però generalmente di non grande importanza. La Costituzione fu messa in vigore il 7 ottobre del 1977. Il lavoro fu condotto per 15 anni e così molti testi furono pronti già da molto tempo. Il testo che ci occuperà qui, cioè la Dichiarazione dei diritti fondamentali, si trova presente nella letteratura giuridica sovietica sostanzialmente dal 66. Così non si può dire che sulla formulazione dei diritti come li abbiamo nella nuova Costituzione, le discussioni sui diritti dell'uomo che ebbero luogo negli ultimi anni abbiano avuto un influsso. Erano già pronte praticamente nel 66 pure l'anno nel quale furono fatti questi patti internazionali sui diritti fondamentali. Adesso parlerò di alcune affermazioni fondamentali della nuova Costituzione che si devono avere in mente quando si legge la Costituzione. La prima di queste affermazioni è il ruolo del partito nella vita sociale e politica del Paese. Nell'articolo 6 si legge: il Partito Comunista dell'Unione Sovietica è la forza direttiva e orientativa della società sovietica, il nucleo del suo sistema politico, di tutte le organizzazioni statali e sociali. Niente di nuovo in questo, solo il posto. Adesso c'è un posto assai cospicuo. L'articolo 6 della Costituzione staliniana, questa frase era solo la seconda frase dell'articolo 126. Però è importante avere in mente questo articolo leggendo la Costituzione, soprattutto quando si parla di organizzazioni sociali. Tali vengono riconosciute soltanto in quanto il loro nucleo è il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Per esempio, per fare un esempio ex contrario, una chiesa può esistere nell'Unione Sovietica e viene considerata come un istituto sociale, però non è un'organizzazione sociale in quel senso lì, perché effettivamente il partito può costituire il nucleo di questa organizzazione. Seconda affermazione fondamentale è: il fine supremo dello Stato è la costruzione di una società comunista senza classi, nella quale si sviluppi l'autogoverno sociale comunista. Questo sta nel preambolo. E nello stesso testo, nello stesso preambolo, fra gli obiettivi fondamentali dello Stato socialista di tutto il popolo, si enumera l'educazione del cittadino della società comunista. Così lo Stato non è concepito come un guardiano di qualcosa che deve essere salvaguardato, eccetera, viene concepito come educatore, Questo certo sarebbe tutto uno studio interessante di studiare la questione che cosa accade quando lo Stato viene considerato come educatore. Adesso vengo alla parte principale, cioè alla dichiarazione dei diritti nelle Costituzioni del 36 e del 77. Non farò qui una comparazione sistematica delle due Costituzioni, segnalo solo che pure la Costituzione staliniana conteneva un capitolo, era il decimo, assai elaborato dei diritti dei cittadini. E segnalerò alcune differenze tra i due testi. Nella nuova Costituzione si parla nel capitolo sesto dell'uguaglianza dei diritti e nel capitolo settimo poi dei principali diritti, libertà e doveri dei cittadini dell'Unione Sovietica. In questi capitoli non si parla del diritto di proprietà, siccome di questo si parla nel capitolo secondo, che è chiamato il sistema economico. La forma principale di proprietà nell'Unione Sovietica, come tutti sanno, è la proprietà socialista, ma quella esclude la proprietà privata solo di ciò che è chiamato mezzi di produzione. E in Unione Sovietica viene adoperata una distinzione terminologica fra proprietà privata, che è sempre intesa proprietà di mezzi di produzione, e proprietà personale, della quale leggo subito che cosa si dice nella Costituzione. È l'articolo 13. I redditi lavorativi costituiscono la base della proprietà personale dei cittadini dell'Unione Sovietica. Possono essere proprietà personale gli oggetti d'uso e di consumo personale, di comunità, di attività ausiliarie, l'abitazione e i risparmi. La proprietà personale dei cittadini e il diritto di eredità sono tutelati dallo Stato. Si vede che c'è pure il diritto di eredità, che sembra contraddire in qualche modo alla prima affermazione, che i redditi lavorativi costituiscono la base della proprietà personale. Forse può essere pure eredità, si può ereditare dalla nonna o dal padre una casa, per esempio. Detto questo, sulla proprietà privata, o diciamo personale, come dicono loro, passiamo al capitolo sesto sulla uguaglianza dei diritti. L'articolo 34 dice: i cittadini dell'Unione Sovietica sono uguali davanti alla legge, indipendentemente dall'origine, dalla condizione sociale e patrimoniale, dalla nazionalità e dalla razza, dal sesso, dal grado di istruzione, dalla lingua, dall'atteggiamento verso la religione, dal genere e dal carattere delle occupazioni, dalla residenza e da altre circostanze. Qui c'è un'affermazione che prima nella Costituzione non c'era, che pure la uguaglianza dei diritti è indipendente dall'atteggiamento verso la religione. Certo, questo può avere vari sensi. Il primo è un divieto di discriminazione, quello già era nella legge penale. L'altro senso potrebbe essere quello: l'uguale diritto pure dei credenti di essere educati per diventare cittadini della società comunista. Se si intende che il cittadino della società comunista deve essere ateo, allora questo vorrebbe dire per i credenti che hanno l'uguale diritto a essere educati all'ateismo. Qui si pone la questione dell'educazione religiosa o dell'insegnamento della religione. Loro sanno probabilmente che la legge in Unione Sovietica divieta ogni insegnamento di religione organizzato, cioè regolare in un gruppo di più di tre persone, in pratica viene interpretato così. È divietato pure ogni insegnamento di religione a minorenni, salvo dei genitori e i propri figli. Questo non è divietato. Però nella stampa sovietica alle volte viene rilevato un contrasto fra doveri e diritti. Sì, i genitori dicono hanno il diritto di educare i propri figli nella propria religione, però se lo fanno trascurano un dovere civico, cioè di educare i propri figli a diventare cittadini della società comunista. Certo, chi lo scrive così sottintende che il cittadino della società comunista debba essere ateo. È chiaro che non tutti lo fanno, ma questo è il punto di vista ufficiale. E nelle scuole c'è sempre quella discussione fra i fautori dell'educazione antireligiosa e l'educazione areligiosa. Gli uni, questi gli ultimi, dicono: perché io devo insegnare il catechismo ai miei allievi perché per poterlo poi rifiutare. Questi miei ragazzini non sanno niente della religione, io non ne so niente, noi facciamo educazione areligiosa. Invece altri, e questo ancora una volta dal punto di vista ufficiale, dicono: no, voi non sapete se forse i vostri figli sono sotto influsso religioso, allora voi dovete fare una educazione antireligiosa. Nel capitolo sesto, dopo quell'articolo generale sull'uguaglianza dei diritti che ho letto tuttora, ci sono ancora alcuni articoli specifici, prima uno sugli uguali diritti della donna e dell'uomo e poi uno sui uguali diritti dei cittadini di differente nazionalità e razza. È una caratteristica delle costituzioni sovietiche che spesso, quando si parla di diritti, l'articolo ha due parti. Nella prima parte viene enunciato il diritto e nella seconda parte viene detto come questo diritto è garantito, per quale istituto, istituzioni, eccetera, il diritto è garantito. Come esempio di questo adesso leggo l'articolo 35 che parla proprio dell'uguaglianza dei diritti della donna e dell'uomo. La donna nell'Unione Sovietica ha diritti uguali a quelli dell'uomo. L'esercizio di questi diritti viene assicurato attraverso la concessione alle donne di uguali possibilità di istruzione, di formazione professionale, di lavoro, di retribuzione, di avanzamento professionale, d'attività politico-sociale e culturale, attraverso speciali misure di tutela del lavoro e della salute delle donne, attraverso la creazione di condizioni che consentano alle donne di abbinare il lavoro con la maternità, attraverso la difesa giuridica e l'assistenza materiale e morale alla maternità e all'infanzia, compresa la concessione di congedi pagati ed altre agevolazioni alle gestanti, alle madri, la riduzione graduale dell'orario di lavoro delle donne con prole in tenera età. Quest'ultima frase fu introdotta negli ultimi giorni della discussione sulla Costituzione e dietro la proposta del cosmonauta Tereshkova, che è membro del presidio del Soviet Supremo. E prima non si parlava di questa riduzione graduale dell'orario di lavoro delle donne con prole in tenera età. È una nuova acquista, è già costituzionalmente fissata. Passo al capitolo settimo. Il primo dei diritti, come ho già detto, è il diritto al lavoro, articolo 40. Segnalo solo una novità in questo articolo, è quello che si parla del diritto di scegliere la professione, che non c'era certamente nella Costituzione staliniana e nella pratica nemmeno. Il seguente articolo parla del diritto al riposo. È detto in questo, fra l'altro, che la settimana lavorativa non deve eccedere 41 ore e deve essere ridotta per certi lavori o quando si lavora di notte. Poi viene il diritto alla tutela della salute, seguono i diritti all'assistenza materiale in vecchiaia, diritto all'alloggio, all'istruzione e di fruire delle conquiste della cultura. E poi sempre viene detto come questi diritti vengono assicurati. Poi viene l'articolo 47, il primo di tre articoli che cominciano con le parole in conformità con, le quali vengono interpretate come un richiamo dei limiti entro le quali tale diritto può essere esercitato. Leggo quello 47. In conformità con gli scopi dell'edificazione comunista, si garantisce ai cittadini dell'Unione Sovietica la libertà della creazione scientifica, tecnica e artistica. Ecco qui, e questa creazione deve essere in conformità all'edificazione comunista. Poi c'è l'articolo 50 che comincia con le stesse parole, in conformità con gli interessi del popolo e ai fini del rafforzamento e dello sviluppo dell'ordinamento socialista, si garantisce ai cittadini dell'Unione Sovietica la libertà di parola, di stampa, di riunione, di assemblea, di corteo e di manifestazione. L'esercizio di queste libertà politiche viene assicurato mettendo a disposizione dei lavoratori e delle loro organizzazioni gli edifici pubblici, le strade, le piazze, diffondendo largamente l'informazione e consentendo l'uso della stampa, della televisione e della radio. Ancora qui, conformità con gli interessi del popolo. Il seguente, in conformità con gli scopi dell'edificazione comunista, i cittadini dell'Unione Sovietica hanno il diritto di unirsi in organizzazioni sociali che contribuiscano allo sviluppo dell'attività e dell'iniziativa politica e al soddisfacimento dei loro vari interessi. Di questo ho già detto che cosa si deve leggere quando si legge organizzazione sociale, cioè che questa deve avere il partito come nucleo. Ci sono ancora l'articolo 48 e 9 che trattano dei rapporti dei cittadini con gli organi statali. Il 48 dice che i cittadini hanno il diritto di partecipare alla gestione degli affari statali e sociali. Il 49 e 9, nuovo nella Costituzione, e suona così. Ogni cittadino dell'Unione Sovietica ha il diritto di fare proposte agli organi statali e alle organizzazioni sociali per il miglioramento della loro attività e di criticare le lacune del loro lavoro. I pubblici ufficiali sono tenuti a prendere in esame le proposte e le dichiarazioni dei lavoratori entro i termini stabiliti, a dar loro risposta e a prendere i necessari provvedimenti. La persecuzione di chi rivolge critiche è proibita. Le persone che perseguitano chi rivolge critiche sono passibili di giudizio. Qui devo aggiungere un altro articolo che pure nuovo nel diritto sovietico e pare molto importante, è l'articolo 58, dove si dice: i cittadini dell'Unione Sovietica hanno il diritto di presentare agli organi statali e alle organizzazioni sociali reclami contro le azioni dei pubblici ufficiali. Tali reclami devono essere presi in esame secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge. Contro le azioni compiute da pubblici ufficiali in contrasto con la legge, eccedendo i limiti dei loro poteri, a danno dei diritti dei cittadini, si può ricorrere in tribunale, secondo le modalità stabilite dalla legge. Questa è la prima volta che nella legge sovietica si parla di un ricorso in tribunale contro dei atti illegali degli ufficiali dello Stato. Poi viene l'articolo 52, quello che soppianta l'articolo 124 della Costituzione staliniana sulla libertà di coscienza. Suona adesso così: si riconosce ai cittadini dell'Unione Sovietica la libertà di coscienza, cioè il diritto di professare qualsiasi religione o di non professarne alcuna, di compiere atti di culto o di svolgere propaganda per l'ateismo, l'istigazione all'ostilità e all'odio in rapporto con le credenze religiose è proibita. Nell'Unione Sovietica la Chiesa è separata dallo Stato e la scuola è separata dalla Chiesa. Questo articolo, come ho già detto, soppianta quello 124 della Costituzione staliniana, che suonava: allo scopo di assicurare ai cittadini la libertà di coscienza, nell'Unione Sovietica la Chiesa è separata dallo Stato e la scuola dalla Chiesa. La libertà di praticare i culti religiosi e la libertà di propaganda antireligiosa sono riconosciute a tutti i cittadini. Questo era la ultima forma dello sviluppo prima della nuova Costituzione che abbiamo adesso, ed è uno sviluppo che va sempre restringendo, che andava sempre restringendo la libertà religiosa, che nel 18 ancora si diceva nella Costituzione: a tutti i cittadini si è riconosciuta la libertà di propaganda religiosa ed antireligiosa. Qui, in quanto alla propaganda, i credenti e i non credenti erano ancora uguali. Questo pure era lo stesso testo della Costituzione del 24. E fu nel 29 che fu introdotta una modificazione della Costituzione di questo articolo, ed era la seguente: a tutti i cittadini sono riconosciute la libertà di professione religiosa e di propaganda antireligiosa. E in tutta la discussione intorno a questa modificazione era chiaro che con questo era adesso escluso costituzionalmente la possibilità di propaganda religiosa. Bene, questa è la storia. L'articolo attuale ha due differenze dall'articolo staliniano. La prima è che ritenendo le parole dell'articolo staliniano, cioè con la libertà di compiere atti di culto o di svolgere propaganda, però riintroduce la formula del 29 parlando della libertà, del diritto di professare qualsiasi religione o di non professarne alcuna. Poi, questa è la prima differenza. La seconda differenza sta in ciò che al posto della parola propaganda antireligiosa adesso si trova propaganda per l'ateismo. Se queste due differenze fanno un senso differente o sono solo verbalmente differenti, è una questione discussa fra gli interpretatori della Costituzione. Io non mi pronuncerei e non vedo che necessariamente sia una distinzione, però può essere una leggera apertura verso la religione. Può essere, dico, secondo me non si esclude e secondo me non si può affermare. Seguono poi gli articoli 53 fino a 7, 53 sulla famiglia, 54 sull'inviolabilità della persona, 55 sull'inviolabilità del domicilio, 56 sulla vita privata dei cittadini e il segreto epistolare. Tutto questo si trovava ugualmente pure nella Costituzione staliniana. L'articolo 57 sul diritto alla difesa legale contro gli attentati all'onore, alla dignità, alla vita e alla salute, ai beni e alla libertà personale. Il 58 abbiamo già visto, è quello del ricorso in tribunale contro atti illegali dei funzionari di Stato. Dopo questo segue l'elenco dei doveri, che comincia con l'articolo 59, nel quale si dice: l'esercizio dei diritti e delle libertà è inseparabile dall'assolvimento dei doveri del cittadino, cosa che va da sé. Forse solo nella nostra testa, non nella nostra pratica. Adesso vengo alla parte seguente, cioè la Costituzione, la nuova Costituzione sovietica ed i patti internazionali. Ci sono due patti: il patto sui diritti economici, sociali e culturali, spesso chiamato Patto 1, e quello sui diritti civili e politici, spesso chiamato Patto 2. Tutti e due sono stati conclusi nel 66, tutti e due sono stati ratificati dalla Unione Sovietica nel 73 e tutti e due sono entrati in vigore nel 76 e sono diventati con questo diritto internazionale vigente. Leggendo questi testi si ha subito l'impressione che nell'elaborazione della nuova Costituzione sovietica è stato tenuto conto di questi patti. Molte formulazioni che vanno oltre il capitolo decimo della Costituzione staliniana sono proprio consone ai propositi di questi patti. E la Unione Sovietica ha collaborato a questi patti, soprattutto al patto 1, quello sui diritti economici, sociali e culturali. Se poi ci domandiamo quali siano i diritti formulati nei patti e non contenuti nella Costituzione, dobbiamo certamente tenere presente che nessuno dei paesi contraenti dei patti si è obbligato a mettere tutto quello che sta nei patti nella Costituzione, solo si è obbligato a metterla nella legislazione e a osservare questa legislazione. Però può essere forse interessante quali siano i punti dei patti che non hanno trovato un eco nella Costituzione. Dal primo patto sui diritti economici, sociali e culturali manca solo un diritto enunciato nel patto nell'articolo 8 lettera D, il diritto di sciopero, quello non c'è. Dal secondo patto sui diritti civili e politici sono alcune affermazioni che nella Costituzione sovietica non si trovano. Prima è nell'articolo 12, dove nel patto si legge: ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio. Secondo, ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio. Questo non si trova nella Costituzione sovietica e non nella legislazione sovietica, nella quale per uscire dal paese si ha sempre ancora bisogno di un visto di uscita. Secondo è l'articolo 19 del patto, dove si dice: primo, ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Secondo, ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L'articolo stesso del patto, questo 19° articolo, riconosce che possono essere delle restrizioni a questo diritto, così come è formulato certamente. E si comprende però che queste restrizioni possono e debbono essere più forti se lo Stato stesso si attribuisce il ruolo di educatore. Coloro che hanno studiato filosofia, o anche alcuni che non l'hanno studiato, però che si sono interessati al pensiero classico greco, hanno forse letto La Repubblica di Platone. La Repubblica di Platone è esattamente la costruzione di uno Stato educatore. E quando questi discutenti intorno a Socrate si pongono la questione quale debba essere la prima legge di un tale Stato, vengono a una conclusione che solo a prima vista può essere sorprendente. Qual è la prima legge di un tale Stato? È la censura letteraria. E questo Platone l'ha visto chiaramente. E non ci può essere nessun educatore che non debba in qualche modo limitare gli influssi su colui che deve educare, questo è inevitabile. C'è pure nel patto l'articolo 10.8, numero 4, dove si dice: gli stati parti del presente patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. Questo, come sta questa cosa in Unione Sovietica, l'abbiamo già detto. Vengo alla conclusione ponendo un'ultima domanda. come sia organizzato il controllo costituzionale in Unione Sovietica. L'Unione Sovietica non ha mai conosciuto una corte costituzionale e la nuova Costituzione non ne prevede neppure. Il controllo costituzionale viene affidato al presidio del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica, che è l'organo permanente di questo Soviet Supremo. Loro sanno che l'autorità massima, secondo la Costituzione, è il Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Questo però si riunisce solo due volte l'anno per alcuni giorni. Nel frattempo agisce il presidio del Soviet Supremo, un organo composto da un presidente, un primo vicepresidente e poi 15 vicepresidenti che sono i presidenti dei Soviet Supremi delle Repubbliche Federali, sono 15, e 15 altri membri che sono eletti dal Soviet Supremo dell'Unione Sovietica e un segretario. In tutto devono essere, secondo la nuova Costituzione, 39, sono due in più di prima. Questo corpo, che ha le competenze più o meno di un Consiglio di Stato, che agisce pure come sovrano, riceve le credenziali, eccetera, eccetera. E a questo corpo pure è affidato il controllo costituzionale. Qualcuno, un conoscitore del diritto costituzionale, scrisse una volta che il secolo dell'assolutismo era il secolo del cinismo e il nostro tempo invece, con le nostre costituzioni e dichiarazioni dei diritti del cittadino e diritti dell'uomo, sia il secolo dell'ipocrisia. Però non penso che tutto possa essere ipocrisia, nemmeno in Unione Sovietica. Io non penso che nemmeno i nemici dell'Unione Sovietica possano dire, con tutto quello che si dice nelle affermazioni sui diritti, sia ipocrisia. No, c'è una vera tendenza e ci sono molti dei diritti che sono veramente garantiti e si possono vivere, non tutti in uguale forza, però la Costituzione non è necessariamente anche là dove forse non è attualmente attuata una lettera morta, può diventare una forza nella misura nella quale gli uomini sono pronti di lottare per le proprie libertà e i propri diritti. Esposto è talmente minuto, anche venendo al concreto, che per certi versi assomiglia più a un codice in certi momenti che non ad una Costituzione che noi immaginiamo sempre un po' così ancorata a livello alto di principi. Comunque ci ha aiutato a portare la riflessione verso il concreto. Secondo, almeno io ho apprezzato sommamente l'obiettività dell'esposizione, fatta di un'esegesi molto aderente ai testi e estremamente coscienziosa. Chi credeva di trovare un'aggressione di tipo politico contro la Costituzione sovietica, una critica fatta con i toni che noi fin troppo conosciamo, vero al punto che pian piano credo che più di uno comincia anche a averli a noia. Certo in questo caso non è stato accontentato, oppure chi temeva talmente questo incontro da strappare per esempio le locandine messe quest'oggi davanti alla porta del Duomo, ecco, poteva star tranquillo in coscienza, non c'era bisogno di inquietarsi e di disturbarsi, mi pare, da questo punto, proprio perché l'esposizione nostra è stata, l'esposizione del nostro caro padre Huber, è stata così obiettiva, così coscienziosa. Non è compito mio venire alla morale o introdurre un discorso che tenti anche di dare corso o dare la stura alle nostre reazioni più, anche più emotive o sentimentali, in questo caso anche all'espressione delle nostre attese o non attese in questo discorso, che mi aspetto, chiedo che adesso nelle domande che, come avete sentito, con tutta serenità potete porre al relatore, vero, di qualunque, da qualunque sponda possano provenire, ma certo riflettevo proprio nelle ultime riflessioni conclusive quanto è necessario vigilare nel senso migliore della parola, quanto è necessaria una accortezza, una lucidità spirituale per cooperare ad una difesa e se possibile anche a un'espansione dei diritti umani. Non stanno in piedi da se stessi, non stanno in piedi da se stessi, anche di fronte ai migliori sforzi o di fronte a tutti gli sforzi concreti che si possono fare, certo decisivo diventa la capacità di rendersi conto di ciò che è in gioco quando si toccano queste cose e di reagire ognuno nel proprio ambiente in questo senso. Ma dico questo solo un po' per dare corda a chi adesso avesse il piacere, come sarei veramente lieto, di dare via o di aprire una certa conversazione che non potrà che essere molto fruttuosa, come lo è stata del resto tutte le altre volte. No, io volevo chiedergli in questo, lei quando analizzava il primo articolo della Costituzione sovietica, vero parlava come dire, del nuovo ruolo che ha il partito, anche definito anche dalla Costituzione, no? Partito come animatore, come coscienza della società, no? Questa cosa la si vede anche nel nuovo inno sovietico, ho potuto osservare, vero, che hanno cambiato le parole che ci hanno messo dentro nella seconda strofa dell'inno sovietico, vero, questo ruolo del partito, no? Ora, sentendo così dettagliatamente tutto quello che è detto nella Costituzione, no? Io per conoscenza di questo problema dell'Unione Sovietica ho l'impressione, vero, che tutto questo sia, come dire, un dover essere, no? Per cui mi pare che quello che diceva alla fine, questo discorso della ipocrisia. Cioè questo discorso che lei diceva alla fine, vero, sulla, come dire, sulla. Dunque, no, se per caso qualcuno non mi avesse sentito, io volevo dire questo, no? Mi è piaciuto molto anche tutta questa analisi così della Costituzione. Ecco, c'è soltanto una cosa però, lì all'inizio si parlava, vero, del ruolo del partito, ora sappiamo, vero, che nel partito c'è la concezione del dirigismo, no? Vale a dire del dirigismo centrale, no? Ora, l'impressione che a me mi ha dato, no, è questa, no, che ci sono, come dire, delle grosse ambiguità, perché ogni tanto spunta fuori il discorso, no, in conformità con gli interessi del partito, in conformità con gli interessi del popolo, no? Ecco, se noi guardiamo questa Costituzione, è stata approvata, diceva lei se non sbaglio, in ottobre del 77, no? E vediamo per esempio i fatti che sono successi ultimamente nella Georgia a proposito della lingua nazionale, poi la questione dei sindacati liberi che hanno tentato di fare, vero, Clevano e vari altri, eccetera, no? No, per cui mi sto domandando è solo così una riflessione che faccio, quel fatto che lei ha detto alla fine sull'ipocrisia mi pare come dire una cosa molto interessante, perché almeno il fatto che siano scritti, no? Ecco, già questo è sinonimo del, come dire, di un progresso che c'è stato nella società, perché come diceva sempre quel filosofo, quello scrittore di cui lei parlava, a un certo punto la facciata, che sarebbe la Costituzione, no? Ecco, dà appiglio alla realtà. Io concretamente quello che gli domando è questo, no? E sappiamo che nell'Unione Sovietica una cosa è la Costituzione, un'altra cosa, ovvero chi la mette in moto, questi diritti, è il KGB fondamentalmente, no? Ecco, e mi sto domandando, però, cioè, quanto tempo fondamentalmente, vero, ci vorrà, cioè, così, no? Quanto tempo, quali saranno secondo lei, come dire, queste linee di evoluzione, e c'è la possibilità che ci siano delle linee evoluzioni, premettendo, vero, il discorso che il partito rimane sempre, come dire, l'animatore, vero, di tutte le varie possibili associazioni e gruppi e cose del genere? O non è molto contraddittorio questo discorso, insomma, no? Ma è certo, è contraddittorio, però pure altri tanti discorsi lo sono. Questa non è una particolarità della Costituzione sovietica che contiene un discorso contraddittorio. Se lei dice che chi fa i diritti o li riconosce o non li riconosce in ultima analisi è il KGB, questo per oggi è esagerato, per il mio. Siccome la destalinizzazione consisteva proprio nel fatto di introdurre una certa sicurezza legale, cioè in un certo modo di mettere o di detronare la, si chiamava all'epoca la NKVD, che era diventato l'apparecchio, infatti, l'apparecchio supremo del potere. Oggi il KGB non lo è più, non è più l'istituzione suprema del potere. Allora, una certa pluralità di poteri esiste, e questo certamente è, a parer mio, troppo piccola. Siccome non sono le belle parole della Costituzione e non sono le dichiarazioni dei diritti dell'uomo che fanno che i diritti dell'uomo siano rispettati, è la pluralità dei poteri, nei quali uno può ricorrere ad un altro, cioè, diciamo, l'indipendenza del potere giuridico, eccetera. Però abbiamo oggi un certo inizio di questo. Certo, il partito non vuol dire, ancora una volta, diciamo, leggendo la Costituzione, e io mi sono forzato stasera di leggerla, leggendo la Costituzione, se noi leggiamo oggi l'affermazione sul ruolo del partito in sesta posizione, cioè articolo sesto, invece di 126 di una volta è in seconda posizione dell'articolo stesso, però il contenuto è lo stesso, non è nuovo questa affermazione. Quello non vuol dire che effettivamente il ruolo del partito è cresciuto. Spesso quando le affermazioni del ruolo di un'istituzione vengono più forti, questa istituzione è già morta. Spesso dico, non vale questo per il partito attualmente in Unione Sovietica, ha ancora un ruolo molto importante, però l'affermazione costituzionale del suo ruolo non vuol dire necessariamente un rafforzamento del suo ruolo, però nella sua autocoscienza il partito certamente si comprende così, come la rappresentanza, loro si chiamano la vanguardia di tutto il popolo. Vuol dire, se il popolo è concepito come un popolo in cammino cioè verso l'uomo nuovo, l'uomo del comunismo, eccetera, e allora l'avanguardia di questo popolo vuole essere il partito. E così si spiega che il partito possa affermare che esso sia necessariamente il nucleo di tutto e abbia un ruolo dirigente, eccetera. I fatti spesso sono differenti. Sono dovute al fatto della partecipazione, no? O ad una maturazione più piena? Qualche idea è per sapere. Esatto, sì. Ma io non ho sentito. Sì. E la seconda domanda: se anziché una correlazione tra potere e diritto c'è una contraddizione insanabile, il pluralismo dei poteri non aggrava questa contraddizione? A Merano è stato tenuto un congresso recentemente ed è risultato, per esempio, che nel Cappuccino non è possibile garantire un miglioramento dei rapporti tra l'Italia e il Cappuccino dal punto di vista linguistico, semplicemente perché non si può fare un patto, però si può perché il potere, anziché essere centrale, è così decentrato a tutti i comuni che si sfalderebbe dentro un breve consistente, anche semplicemente il patto. Esatto. Perché oltre che una contraddizione interna, c'è anche una contraddizione funzionale per quanto riguarda altri rapporti, sì. Anche rapporti in pari interna con i vari stati Sì, questo è esatto. E qui ancora una volta vediamo il carattere antinomico delle istituzioni sociali. La centralizzazione del potere permette di fare facilmente molte cose che con una forte decentralizzazione del potere non si possono fare. Certo, però la decentralizzazione, una certa decentralizzazione del potere è la sola garanzia perché i diritti dell'uomo possono essere osservati. Se no, si può fare differentemente, come faceva Platone. Allora, secondo lui, il potere doveva essere fortemente centralizzato, però affidato ai filosofi. Cioè, il potere centralizzato richiamerebbe poi il governante ideale. E siccome noi sappiamo che i governanti non sono ideali, possono essere buoni se abbiamo fortuna, allora è meglio di avere una certa decentralizzazione che poi ci costa pure, che non ci permette di fare tutto quello che si può fare con un potere fortemente centralizzato. Però lei aveva ancora una prima domanda. No, sì, è stata la partecipazione della tutti. Ah sì, esattamente. Esattamente. Mi pare tutte e due, sia l'uno sia l'altro. Nella formulazione certamente si rispecchia la partecipazione della Russia all'ONU e alla preparazione di questi patti. Nel contenuto c'è una certa maturazione, senz'altro. E anche forse un appello da fuori. La nuova Costituzione non poteva rimanere indietro quella staliniana, cioè doveva contenere delle affermazioni sui diritti che erano più esplicite che conteneva la Costituzione staliniana. Questa, diciamo, psicologicamente era una necessità. Intanto per avere un'idea di insieme, no? Secondo il suo parere nel campo, no? Questa Costituzione nuova, no? Per quanto riguarda il punto dei diritti umani, intendiamo dei diritti, non tanto perché io sento spesso Radio Mosca e allora lì si parla vero dei diritti tipo il lavoro e cose del genere, io parlo dell'altro tipo di diritti, mi pare che lei... Cioè, i diritti politici... Libertà di parole, associazione, sì. Cose del genere, no? Così, onestamente parlando, lei mi pare che questa Costituzione adesso sia, rispetto a quella precedente, sia un passo avanti o sia più o meno una, così, legittimazione o rimanere più o meno sul stesso punto della precedente? Non direi che costituisce in questa linea un passo considerevole avanti. Certamente di certi diritti si parla dei quali non si parlava nella Costituzione staliniana. Come possono essere attuati nella situazione attuale è una questione, a parer mio, di lotta. In che senso lotta? Un potere non è mai assoluto, neanche quello dell'NKVD lo era. Ogni potere è, come direi, dipende da certi limiti che gli sono imposti dal insieme di coloro sui quali si esercita il potere. Facciamo un piccolo esempio: se noi tutti vogliamo, nessuna polizia del mondo sarà capace di arrestare tutti i ladri. E se tutti siamo ladri, se tutti ci occupiamo di questo, nessuna polizia ci può arrestare tutti. Questo è chiaro. Allora, una polizia può sempre perseguitare solo un certo, come direi, una certa quantità di trasgressioni. E questo solo per esempio, per dare un esempio della limitazione di ogni potere, anche quando si parla del potere totalitario e tutto questo, non è mai totale. È sempre pure questo, una lotta, cioè una contrazione tra coloro che vogliono imporre la propria volontà o la istituzione che vuole imporsi, eccetera, e la gente alla quale si deve imporre qualche cosa. In questo senso mi pare i diritti, il discorso dei diritti dell'uomo, eccetera, è fondamentale. Se non c'è una volontà per guadagnarsi questi diritti, non saranno mai effettivamente concessi. Comincio dall'ultimo e poi lei mi richiama dal primo. La eredità, il diritto di eredità non è nuovo, non è mica nuovo. Lo era in quanto io so sempre in Unione Sovietica, lei poteva ereditare la casa. Questo non è mica nuovo, e il diritto di eredità è regolato da molto tempo. Quando io nel 66 studiavo all'Università di Mosca, Ricordo bene una ragazza che mi dice: ho ereditato una casa da mia nonna. Allora pure nel 66 si poteva ereditare una casa dalla nonna. Bene, poi per la stampa, io ho letto l'articolo come era, con questa frase introduttoria: certo, la libertà della stampa secondo il partito nell'Unione Sovietica c'è, perché quelle forze che sono progressive hanno tutta libertà di stampare. Allora tutte le organizzazioni che sono delle quali il nucleo è il partito, e sono questi che sono progressivi, possono stampare ciò che vogliono. Ciò che vuole, cioè la volontà progressiva. Bene, allora però la prima questione, mi richiami la prima. Io non penso che è un regresso. Ha cambiato solo il posto nel testo di questa affermazione, e quello per me è una cosa molto ambivalente e difficilissimo spiegarne il senso, e può essere proprio il senso, potrebbe essere che loro tentano a rafforzare, e vuol dire forse che loro fanno l'ultimo tentativo per affermare quello che è già accaduto, eccetera eccetera via. Qui siamo senza fine però mi è venuto un pensiero pensando alla sua ultima intervenzione, e questa antinomia dei diritti dell'uomo, dei quali io ho parlato all'inizio e che salta fuori in molte intervenzioni, poi quando si discute si può pure descrivere come l'antinomia della libertà e della sicurezza. E siccome i diritti dell'uomo, come li abbiamo oggi, contengono diritti alla sicurezza e diritti alla libertà, sono in se stessi contraddittori. E quello, diciamo, colui che ha il primo, e forse nel nostro, diciamo, nei nostri tempi, rilevato questa antinomia, era proprio Dostoevskij, il suo grande inquisitore. Spesso si legge il grande inquisitore come un pezzo di polemica anti-cattolica, per niente, questa è solo la veste esterna nella quale la cosa si poteva stampare. È scritto da un punto di vista proprio filosofico, avendo in mente piuttosto i socialisti del tempo che i cattolici, e prende l'antinomia della sicurezza e della libertà al suo più, come direi, tagliante proprio. E questa esiste, questa antinomia, certamente esiste. E dobbiamo averla in mente quando studiamo i diritti dell'uomo, anche quando la studiamo nella Costituzione Sovietica. E qualcuno, un interpretatore della nuova Costituzione, finisce la sua intervenzione con la frase dicendo: questa politica è una politica che vuole la sicurezza, che dà alla sicurezza, come direi, un più grande peso che alla libertà. Sicurezza sia dell'individuo, dell'insieme, dello Stato, cioè della società. Non solo pane e circensi, le nostre assicurazioni sociali e tutto quello, no? Non sono solo pane e circensi, è una necessità di sicurezza della nostra società attuale. Quali strumenti specifici, se ci sono, di partecipazione del popolo, diciamo, alla vita pubblica, esistono nella Costituzione sovietica? E più in particolare, che rapporto c'è tra le politiche pubbliche dell'Unione con il potere centrale? Cioè c'è un'indipendenza relativa delle politiche pubbliche? Oppure hanno, come in America, ad esempio, negli Stati Uniti, il loro statuto, o c'è una dipendenza più diretta? Ecco, questa è la domanda. Questo dipende fortemente da che cosa si tratta. Comincio prima del rapporto fra Unione e Repubbliche Federali. No? Negli Stati degli Stati Uniti, per esempio, il diritto penale può essere differente, è fortemente differente. Quello in Unione Sovietica non ce l'abbiamo. Il diritto penale è quasi interamente unificato. Però negli Stati degli Stati Uniti lei non c'ha una differenza culturale. E quella può essere fortissima nell'Unione Sovietica, tra popoli di culture veramente differenti. E qui hanno dei diritti che fanno spesso invidiare i russi. Io spesso ricordo dei russi che mi dicevano: oh, questi in Armenia, questi in Lituania, questi in Georgia si possono permettere delle cose che noi non possiamo permetterci. Ed è vero, io sono entrato a Tiflis in una chiesa e che cosa ho fatto? Mi sono comprato un Nuovo Testamento per 3 rubli in chiesa. Una Bibbia in russa, in russo, lei non la troverà in nessuna chiesa, e se la trova sul mercato nero costa 100 rubli. Allora, sotto diciamo, il titolo di salvaguardia della cultura nazionale si possono fare moltissime cose che in Russia sono più difficili che nelle repubbliche non russe. Questo sulla differenza. Allora, nominalmente nell'Unione Sovietica le repubbliche hanno persino il diritto di uscire dall'Unione Sovietica, pure nella nuova Costituzione sta dentro questo. Se mai questo verrebbe accettato, io non ci penso tanto. Bene, questa era la seconda. La prima era? Gli strumenti specifici, se ce ne sono. Esatto, sì. Partecipazione del popolo alla vita pubblica. Sì, leggo prima quello che sta nella Costituzione, poi dico altre cose. Allora, nell'articolo 48... si garantisce il diritto di partecipare alla gestione degli affari statali e sociali, eccetera. Tale diritto è garantito dalla possibilità di eleggere e di essere eletti nei soviet dei deputati popolari e in altri organi statali elettivi, di partecipare alle discussioni e alle votazioni di tutto il popolo, al controllo popolare, al lavoro degli organi statali, delle organizzazioni sociali e degli organi di iniziativa sociale, alle assemblee dei collettivi dei lavoratori e nei luoghi di residenza. Tutte queste è difficile a capire per chi non conosce la vita sovietica, cioè chi non sa che cosa è un soviet. Ogni paese ha il suo soviet, per esempio, e ogni città, ogni regione, eccetera. Ci sono tanti di questi soviet. Poi che cosa sono queste organizzazioni sociali e organi di iniziativa sociale? E poi di assemblee, di collettivi del lavoro e di residenza, un'assemblea degli abitanti di una casa, per esempio, e tutto questo, o di un quartiere. Certo, mi pare che si può fare relativamente molto, se l'iniziativa c'è. Certo, l'iniziativa è una cosa che manca. E perché manca? Perché decenni e centenni, si può dire, se si prende almeno l'ultima tappa dello zarismo insieme, il popolo è stato educato alla passività da un regime poliziesco. Così l'attività di base, quello che noi chiamiamo come si chiama questo, la democrazia immediata, no? Diretta, ecco. Tutto quello è lì, è sottosviluppatissimo. Si dovrebbe sviluppare. E secondo tutto il programma del partito, e pure secondo certe affermazioni della Costituzione, si dovrebbe sviluppare, perché il comunismo sta in questo. Una volta diciamo, che abbiamo creato la base materiale, sta in questo. Se si faranno dei progressi adesso in questa linea, è molto difficile dire, perché appunto abbiamo da un lato il partito che richiama di essere direttivo in tutto, ma che è una grossa organizzazione burocratica attualmente, e viene, paralizzato dal fatto che moltissimi entrano nel partito per poter fare carriera, e gente con una mentalità burocratica. Bene. Altri che hanno più mentalità iniziativa rimangono fuori, abbiamo già un contrasto. Poi, questo è il primo fatto. Il secondo è che la reminiscenza dello stalinismo tra i giovani non c'è quasi più, ma tra la generazione che ha la mia età più o meno è ancora fortissima. Una paura del potere repressivo che sta ancora proprio dentro e che è sempre pronto a uscire in qualsiasi reazione, paralizza l'attività di base. Poi c'è una cosa che vorrei dire, che in questa partecipazione alla vita pubblica c'è una cosa che noi non abbiamo tanto, che loro lì mi pare funziona assai bene, e sono i riparti lettere dei grandi giornali. E in alcune redazioni dei giornali il reparto lettere è il più grande. Io, per esempio, se lei prende tutto il corridoio della redazione della Komsomolskaya Pravda, che è uno dei tre grandi giornali centrali, il più grande reparto è quello lettere dei lettori, lettere dei lettori, lettere dei lettori, eccetera. E questo hanno certamente un influsso. Certamente è filtrato ancora per la redazione e poi ancora c'è una certa supervisione, però c'è il flusso innegabile che si può avere attraverso lettere alle redazioni. Come si spiega? Certo. Il governo sovietico lì si trova in una situazione molto difficile, ancora una volta avendo in mente che vuole una sicurezza. Il paese attualmente è costruito così che è molto difficile a immaginare un cambiamento significativo senza provocare un'esplosione. E così cercano a contenere ogni dissenso in dei limiti nel possibile, allora inventano tutti i mezzi per limitare il dissenso, sia per intimidare, sia mandando via la gente che fa chiasso, eccetera. Allora, fanno tutto per limitare il dissenso interno, perché hanno paura che questo potrebbe un giorno creare una vera esplosione. E così pure a Belgrado, quando si sentiva che l'Europa occidentale si mette più o meno nella linea della difesa del dissenso interno dell'Unione Sovietica, questi dicevano niente. E se pensiamo, penso qui la maggior parte sono cattolici, io vedo molti cattolici che oggi mi dicono che qui da noi ci vorrebbe della disciplina e adesso abbiamo tutto disordine, ciascuno può pensare ciò che vuole, eccetera, via. E quello è proprio l'argomento di coloro che lì vogliono contenere le forze. Dicono, se noi diamo un po' più di libertà, che cosa avremo? Ciascuno penserà ciò che vuole, ciascuno farà ciò che vuole. E già adesso io ricordo alcuni neostalinisti a Mosca 5 anni fa che mi dicevano: ma che cos'è questo oggi? Che disordine che abbiamo in questo paese? Non c'è più disciplina. Allora, qui c'è, ecco le forze che lottano. Beh, come pensate voi se prima di Machiavellisti? Machiavellisti? Ah sì, appunto. I rapporti democratici invece che democratici sono aperti. Allora qui con questo appunto è uno degli argomenti di coloro che vogliono mantenere una certa disciplina pure dell'espressione del pensiero eccetera in Unione Sovietica, dice se noi questa disciplina non la manteniamo arriviamo a una situazione come la facoltà di sociologia in Trento. Bene, credo che abbiamo approfittato largamente del padre Huber e chi è stato presente e ha perseverato anche la discussione credo che non va a casa insoddisfatto, è stata una delle serate più interessanti a mio giudizio e che ci ha aiutati anche a venire al concreto con vero senso di responsabilità. Noi ringraziamo il padre Huber.